Volevo ringraziare il gruppo Lode per questo meraviglioso tempo di adorazione che abbiamo potuto spendere. Siamo grati a Dio per questo. Vogliamo anche ringraziare tutti coloro che stanno servendo in questo momento, in questo incontro. Su in regia il Team Power, il team di accoglienza, il team di benvenuto, i leviti che contano le finanze che vengono raccolte, chi c'è nel punto info, al bar, dietro, nei bambini. Sapete che per ogni incontro ci sono tra i 20 e i 30 volontari che si prodigano per permetterci di vivere un incontro gradito, piacevole. Quindi siamo grati ad ogni volontario e poi c'è il team per eccellenza che noi dobbiamo onorare sempre nel servizio della nostra Chiesa ed è il team della Servolution, cioè coloro che puliscono gli ambienti. Se sei parte della Servolution, se lavi in Chiesa, alzati in piedi ora che ti facciamo un bellissimo applauso con tutto il cuore. Perché lavi i pavimenti per noi, grazie, grazie per quello che fate, grazie, grazie perché avere degli ambienti sporchi non piacerebbe a nessuno, vero? Quindi siamo grati a Dio che abbiamo degli ambienti puliti e questo è reso possibile grazie al volontariato di persone che si servono, che si danno da fare e servono la Chiesa in una maniera così bella e umile anche. Grazie, grazie, grazie. Ripetete con me questa frase, anche a mottola. La distrazione è un furto. Se ci credi di più di come l'hai detto adesso, ripetilo più forte. La distrazione è un furto, ripetilo. Ci crediamo? Quando veniamo distratti, veniamo derubati. Se sei a scuola, ragazzi, no? Per chi va a scuola e l'insegnante sta insegnando, se ti distrai al tuo cellulare, vieni derubato della possibilità di apprendere nuove nozioni dai professori che vi stanno insegnando. E tutti i professori in mezzo a noi dissero, amen, è così, esatto, la distrazione è un furto. La distrazione è un furto nel momento in cui stai guidando e ti lasci distrarre da un cellulare che squilla e quella distrazione può essere pericolosissima. Siamo d'accordo? La distrazione è un furto anche spiritualmente parlando. Noi sappiamo che il diavolo viene per rubare, ammazzare, distruggere. Lui è un ladro professionista e sapete un mezzo attraverso il quale lui ci deruba delle benedizioni di Dio? Qual è? Distrarci in chiesa. Distrarci nel gruppo familiare, distrarci nel tempo di preghiera, sono solo io che quando si ferma e decide durante il giorno di dedicare un tempo alla preghiera e alla lettura della Bibbia, in quel momento tutte le telefonate, tutti i pensieri, sono solo io, è vero anche per voi? Il diavolo viene per rubare e un mezzo che lui usa per rubare è la distrazione. A nessuno di noi piace essere derubati, vero? Quanti hanno subito un furto nella propria vita? Quando noi tanti, a casa, oggi ne parlavamo a pranzo, nove furti, papà, quanti ce ne sono stati? Nove furti in casa. Per chi ci segue da Milano non ci può capire, siamo nel meridione, ci piace ospitare le persone gradite e non gradite in casa, in ogni tempo, favorevole e non favorevole. E quando le persone vengono in casa e ti derubano, ti senti male, ti senti spogliato, ti senti che qualcuno ti ha privato di uno spazio che è tuo. E ogni volta che noi veniamo derubati, questo ci permette di ricordarci che c'è un ladro sulle nostre vite che costantemente non fa altro che cercare di derubarci delle benedizioni e delle ricchezze che Dio ha per noi. È un po' triste pensarlo in questa maniera, però io voglio metterla su questo piano. È triste pensare che molti credenti non hanno tutte le benedizioni che Dio ha per loro perché si lasciano puntualmente derubare dal nemico attraverso la distrazione o altri mezzi. Io non voglio essere derubato. Amen? Chi è con me che non vuole essere derubato? Io voglio mettere le inferriate al mio cuore. Io voglio mettere le inferriate, l'allarme alla mia mente. Io non voglio essere derubato delle benedizioni che vengono dall'alto. Questo libro, questo libro che non è un libro qualunque, la parola vivente di Dio, è ricco di benedizioni per me. Io non voglio essere derubato delle benedizioni che Dio ha per me, perché vengo distratto da un film, una serie televisiva, da un avvenimento durante la giornata, una chiamata, un SMS, Facebook e i social. Io voglio dipendere dalla parola di Dio. Chi è con me? Se siamo qui è perché siamo un popolo che vuole dipendere dalla parola di Dio e vuole prendere tutte le ricchezze che Dio ha per noi attraverso di essa. Amen. Quindi io adesso andrò a leggere la parola di Dio e io chiedo che veramente nel nome di Gesù tu non possa essere derubato di nessuna cosa che Dio vuole dirti questa sera. Amen. Leggi con attenzione, esamina ogni lettera, ogni sillaba che verrà detta questa sera, perché dietro le parole che ascolterai questa sera ci sono delle benedizioni per la tua vita, e se non ti lasci distrarre, io ti garantisco che uscirai da questo locale arricchito e ti riprenderai quello che è tuo. Amen. Lo vogliamo fare insieme? Vogliamo leggere quelli che sono stati 4 segni miracolosi che hanno accompagnato la morte di Gesù. 4 segni miracolosi, lo leggiamo in Matteo al capitolo 27 dal versetto 50. C'è scritto questo, ascoltate la parola di Dio cosa dice. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. In questo momento Gesù muore, è sulla croce in agonia e in questo momento lui muore. Rese lo spirito. Ed ecco, ascoltate ora, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, questo capo dei soldati romani, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, visto il buio, erano le 3 di pomeriggio circa, buio pesto, terremoto, avvenimenti soprannaturali, che cosa succede a quest'uomo? Furono presi da grande spavento e dissero: veramente, veramente, costui era figlio di Dio, veramente costui era figlio di Dio. Questo soldato romano, insieme agli altri suoi amici, hanno ingiuriato Gesù, si sono fatte beffe di lui, hanno detto: se sei Dio, fatti vedere, mostrati. Hanno sputato, l'hanno ingiuriato, l'hanno bastonato, l'hanno flagellato, l'hanno appeso a quel legno, l'hanno appeso alla croce. E quando Gesù è morto e queste cose sono accadute, si è reso conto della tragedia che era in atto. Si è reso conto in questo momento che letteralmente Gesù era quello che diceva essere. Io questa sera voglio soffermarmi su quello che è l'avvenimento soprannaturale di questi 4, più eccezionale e più importante per la vita di ogni credente. E qui si libereranno delle benedizioni nella nostra vita se comprendiamo appieno il valore di questo segno miracoloso. E mi sto riferendo al fatto che la cortina del tempio si squarciò da cima a fondo. Noi lo cantiamo anche, il velo è strappato, ma io vorrei che noi comprendessimo di che cosa stiamo parlando. Non è un velo qualunque, non si tratta di un tendaggio qualunque che c'era all'interno del tempio. Questa era una cortina di una grandezza incredibile, possiamo vedere un'immagine, non era un telo come quelli che abbiamo qui su questo palco, leggero, che potevi maneggiare con facilità, era un telo che, pensate, gli studiosi pensano fosse spesso quanto il palmo di una mano, neanche i tappeti persiani hanno questo spessore, ma questa cortina era spessa, era doppia, era pesante, era altissima, era alta 20 metri, guarda questo soffitto, aggiungi altro e tanto perché qui siamo a 8 metri circa, il doppio di questa altezza, così alta era la cortina, e la Bibbia ci dice in tutti e tre i Vangeli sinottici, e questo ci fa capire che per gli autori della Bibbia era importante riconoscere il valore della cortina strappata da cima a fondo, tutti e tre dicono si strappò nel mezzo, si strappò da cima a fondo, non da fondo a cima. Come se ci potesse essere il dubbio che qualche uomo riuscisse a strappare questo telo, ma ancora di più, sorprendentemente, dalla cima più alta, questa cortina nel Tempio si strappò, si squarciò in due. E in quei giorni a Gerusalemme c'era una festività importante, il Tempio era gremito di persone. Non dobbiamo pensare che tutta Gerusalemme era lì ad assistere alla crocifissione di Gesù. A volte noi leggiamo i Vangeli e pensiamo che le persone fossero solo e tutte nel punto nel quale noi stiamo leggendo. No, c'era una festa in corso ed era talmente importante questa festa che fu scelto di far morire prima i crocifissi, le persone crocifisse, tra cui Gesù. Per questo furono spezzate loro le gambe, tranne a Gesù perché era già morto a quel punto. Perché? Perché volevano accelerare la morte di queste persone condannate a morte, perché c'era una festa in corso ed era una festa religiosa. Quindi il Tempio era gremito di persone e tanti sacerdoti, coloro che avevano accesso dentro il Tempio, videro, assistettero a questo squarcio della cortina da cima a fondo. Ed è per questo che io sono convinto che poi leggiamo negli Atti degli Apostoli che molti sacerdoti credettero in Cristo Gesù. Per questa ragione io credo che molti si ravvidero, perché videro qualcosa di miracoloso, inspiegabile e di un significato di estrema importanza. Qual è il significato? Qual è il valore di una cortina, della cortina del Tempio che si squarcia da cima a fondo? Beh, qui dovete seguirmi un attimo, perché andrò a illustrarvi quello che era il Tempio, che è una costruzione che fu realizzata prima da Salomone, poi distrutta e poi ricostruita. Questo era il secondo Tempio. Ai tempi di Gesù c'era questo secondo Tempio, e il Tempio era una costruzione fisica che ricalcava esattamente il tabernacolo di Mosè. Dio comandò a Mosè di creare, se vogliamo, un Tempio che era portatile, che era possibile montare e smontare mentre il popolo uscito dall'Egitto viaggiava nel deserto. E questo tempio aveva una recinzione, e quando tu entravi in questa recinzione ti ritrovavi davanti a quello che era un cortile, e nel cortile c'era una conca di acqua, c'era l'altare dei sacrifici e poi c'era la tenda di convegno, il santuario. E questa tenda di convegno era divisa da una cortina, già da allora era divisa da una cortina, e ciò che separava la cortina era il luogo santo dal luogo santissimo. E nel luogo santissimo c'era l'arca del patto, c'era la vera presenza di Dio. All'interno del luogo santissimo c'era la legge di Mosè, c'era il bastone di Aronne, c'era la manna, c'erano i segni della provvidenza, della mano potente di Dio. E Dio scelse di risiedere al centro dell'accampamento del popolo di Israele. Infatti istruì Mosè di mettere questo tempio tascabile proprio al centro dell'accampamento, quindi tutti avevano le loro tende attorno a questo tabernacolo. Il tabernacolo era al centro, c'era il cortile e poi c'era questa tenda di convegno, separata nei due ambienti che vi ho descritto. Alla stessa maniera il Tempio, nel centro della città di Gerusalemme, era posizionata in un luogo strategico, e entravi attraverso quelle che erano delle porte, porte, la porta principale era quella d'Oriente, e entravi in questi cortili, in questi enormi spazi larghi dove sentiamo e leggiamo che Gesù insegnava, dove gli apostoli hanno insegnato. E poi c'era il Tempio, anche questo costruito in una maniera straordinaria, non era enorme. Sapete, la Cappella Sistina, se qualcuno c'è stato a Roma, ha le dimensioni esatte del Tempio di Gerusalemme. Quindi se vi ritrovate lì ad andare, guardate quelle dimensioni, di quelle dimensioni era il santuario. E lì c'era il luogo santo e il luogo santissimo. E il luogo santo e il luogo santissimo erano tutti dorati, adornati di fiori, di piante, di palme. Sapete perché? Perché la Bibbia è una lunga narrazione che comincia in Genesi e ci parla di una divisione. In Genesi noi leggiamo che l'uomo è stato separato da Dio perché ha disubbidito e si è ribellato al suo comandamento. E quando l'uomo si è ribellato a Dio, Dio lo ha cacciato, ascoltatemi ora, da est, da oriente. Ha cacciato via l'uomo dalla sua presenza, perché un Dio santo non poteva avere connessione e relazione con un uomo corrotto, disubbidiente, sporco e peccatore quale siamo noi oggi. E quindi Dio ha separato l'uomo da se stesso, ha cacciato l'uomo da questo giardino di delizia, Eden significa delizia, e li ha cacciati da est. Li ha cacciati da est e a est ha posizionato dei cherubini a guardia dell'ingresso del giardino, il tabernacolo, il tempio, aveva un ingresso esattamente nella direzione nella quale l'uomo era stato cacciato. L'ingresso principale era ad est, e questo perché Dio, da quando l'uomo ha fallito, da quando l'uomo ha disubbidito, da quando l'uomo è stato cacciato e Dio si è separato da lui, il desiderio di Dio in tutta la narrazione biblica è quella di riconciliarsi e riportare indietro l'uomo a quel luogo di delizia, a quel luogo santissimo, a quel luogo di dimora dove l'uomo, noi leggiamo, Adamo ed Eva passeggiavano con Dio. Sai qual è il desiderio di Dio in tutti i millenni, in tutti i secoli, per l'umanità? Riconciliarsi, avere una relazione ripristinata, trovare un mezzo attraverso il quale il peccato fosse espiato, fosse perdonato e ci potesse essere questo riavvicinamento e questa intimità. Dio vuole intimità con te, Dio vuole connessione con te, Dio vuole stare con te, Dio vuole stare con me. E quindi il tabernacolo era un modo per dire al suo popolo: io vi voglio di nuovo indietro nel luogo di delizia, la mia presenza. Non potete, perché non siete degni, e quindi dovrete presentare sacrifici. E un solo uomo una volta all'anno, il giorno dell'espiazione, aveva il privilegio, il meraviglioso privilegio di entrare nel luogo santissimo. Un solo uomo, un giorno all'anno, nel giorno dell'espiazione. E questo uomo era il sommo sacerdote. E pensate, era qualcosa di talmente tremendo che questo sommo sacerdote entrava con una corda legata alla propria caviglia. Sapete perché? Perché se avesse sbagliato qualcosa nel rituale di purificazione e in quel luogo, nel luogo santissimo, fosse entrato con qualche macchia, con qualcosa fatta di sbagliato, sarebbe morto in quel luogo. E l'unico modo per tirar fuori il cadavere sarebbe stato tirarlo, gli altri sacerdoti l'avrebbero tirato, episodi che sono accaduti, tirato attraverso la corda. Perché chiunque altro fosse entrato nel luogo santissimo sarebbe morto. Nessuno di noi ha il diritto, per i propri peccati, per le proprie mancanze, di entrare alla presenza del Dio Santo. Capite perché è straordinario quello che succede? Capite perché quando Gesù muore, il fatto che la cortina si strappi dalla cima al fondo è un segnale per l'umanità straordinario, dove Dio sta dicendo: questo luogo, il luogo della mia dimora, il luogo santissimo, la mia presenza ora è accessibile per ognuno che crede nel sacrificio di Gesù Cristo, per ognuno che crede nell'aspersione del suo sangue, per ognuno che non può più usufruire del sacrificio di animali imperfetti e solo una pallida illustrazione del sacrificio eccellente in Cristo Gesù. Chiunque avrebbe usufruito del sangue di Gesù Cristo avrebbe avuto accesso e ha accesso alla presenza del Santissimo. Alleluia, non è glorioso questo? Io, tu, abbiamo il privilegio più grande che ci possa essere su questa terra. È un privilegio che è costato un prezzo carissimo al Padre. E quel privilegio ci è dato non in virtù delle buone opere che noi possiamo fare, non in virtù di rituali religiosi, non in un luogo fisico, non in una posizione particolare di atteggiamento, di rituale, di religiosità, ma in virtù del sangue di Gesù, perché la morte di Gesù ha strappato quel velo e ha reso accessibile il luogo santissimo. E tutto quello che vi ho spiegato lo troviamo in Ebrei. Io vi invito a leggere la lettera agli Ebrei, che spiega con dettagli molto profondi, molto particolari, come se fosse uno studio biblico del vecchio patto. E io voglio leggere quello che è un verso significativo, perché ci permette di inquadrare tutto quello che io ho detto, e in più ci fa un appello al quale noi vorrei che rispondessimo questa sera. In Ebrei, al capitolo 10, dal versetto 19, c'è scritto questo: non ti distrarre, la distrazione è un furto. Concentrati sulla parola di Dio e vedi quello che dice in questi versi. Avendo dunque, fratelli, libertà, libertà, non più un tempio, non più sacrifici di animali, non più la riservatezza di un solo uomo un giorno all'anno, ma avendo dunque libertà, tutti noi, tutti, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova, una nuova via, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina squarciata, vale a dire la sua carne, come Lui è stato squarciato, così la cortina è stata squarciata. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, ascoltate ora, avviciniamoci. Avviciniamoci. Dio ti dice stasera: avvicinati. Chiesa, Dio ci sta dicendo: avviciniamoci. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. Domenica prossima vivremo i battesimi. Il battesimo è ciò che sigilla la scelta di entrare nel luogo santissimo, di godere di questa relazione, di lasciare l'uomo vecchio e vivere la novità di vita in Cristo Gesù, avendo comunione con il Padre ed entrando nel luogo santissimo. Ma ciò che mi colpisce di queste parole e che il Signore ha messo in risalto mentre le leggevo è questo verbo: avvicinatevi. Sapete, tutto questo è a disposizione. Mentre Gesù moriva, la cortina si è strappata. E in quel momento, e da quel momento, il luogo santissimo non è più un luogo esclusivo, ma è aperto a tutti. Tutti possono stare alla presenza di Dio. Ci rendiamo conto? Tutti hanno la possibilità di stare faccia a faccia, in intimità, entrare di nuovo in quella condizione del giardino, quella condizione iniziale di Genesi. Eppure c'è qualcosa che può limitare me e te dal godere di questo grandissimo privilegio. E la prima cosa è non sapere di tutto questo, ma stasera sai di tutto questo. Ma la seconda cosa è scegliere di non avvicinarti. E di scegliere, e questa è una scelta troppo triste che vedo fare, volontariamente o involontariamente, da troppi credenti, e sulla quale il Signore ha dovuto riprendere me. E qualche giorno fa era la sua presenza, il Signore mi ha detto: Mirko, stai facendo bene, ma fallo di più con me. E io credo che la stessa voce, lo Spirito Santo, le stesse parole, lo Spirito Santo vuole dirti a te stasera: hai il beneficio del perdono dei tuoi peccati, stai facendo bene. Sei qui in chiesa, stai facendo bene, stai servendo Dio, stai facendo bene. Ma c'è di più, e c'è qualcosa che ti stai precludendo di poter vivere, che è il privilegio, il vero privilegio, il più grande privilegio che puoi vivere su questa terra. Il privilegio che era dato al sommo sacerdote, tu lo puoi vivere, e lo puoi vivere ogni giorno, lo puoi vivere in cucina, lo puoi vivere nel soggiorno, lo puoi vivere nel posto di lavoro, lo possiamo vivere quando siamo riuniti qua. Ed è il privilegio di avvicinarci con cuore sincero e accedere a quel luogo santissimo dove Lui vuole incontrare noi. Dio sta dicendo a te: avvicinati, non rimanere lontano. Perché tutte queste benedizioni sono a tua disposizione, ma puoi rinunciare a tutte queste benedizioni per apatia, puoi rinunciare a queste benedizioni per distrazione, puoi rinunciare a queste benedizioni per pensieri e circostanze che stai vivendo nella tua vita. E il diavolo è così furbo, è un ladro, e viene per derubare i credenti del dono più prezioso che ci è dato in Cristo Gesù, l'accesso alla presenza di Dio. E tu trascini le tue giornate, e le tue giornate sono vuote, e tu vai avanti in questa vita, e questa vita è pesante, e sai che credi, e sai che vuoi, e sai che sei salvato, ma non godi del privilegio che è dato a ogni figlio di Dio di entrare alla presenza di Dio, ascoltare la sua voce, essere riempito dello Spirito Santo e fluire, vivere una vita che è di benedizione per altri e il cui cuore è trasformato costantemente. Perché non sei solo, perché non sei abbindolato da tutte le circostanze, tutte le voci e tutte le situazioni. No, sei tu con Dio e passeggi con Lui e stai alla sua presenza. Urlo perché la mia speranza questa sera è che tu possa fare una scelta. E se è necessario urlare più forte, lo farò. Ma scegli di avvicinarti a Dio, perché Lui ha fatto tutto ciò che era necessario fare per darti accesso alla sua presenza. Stasera, scegli di avvicinarti a Lui. Io voglio una vita ancora più benedetta. Io voglio vivere una vita ancora più soprannaturale. Io voglio vivere una vita dove, per quanto mi possa essere buttato addosso, io vivo una pace che sorpassa ogni intelligenza. Io voglio vivere una vita che le persone osservandola possono dire, ma lui come fa? Com'è possibile? Io voglio vivere una vita nella quale usufruisco del privilegio più grande che mi è stato dato in Cristo Gesù, di stare alla presenza del mio Padre, perché non c'è più niente che può separarmi da Lui. E lo stesso vale per te. Non c'è più niente che può separarti dal vivere questo privilegio. Lui ha pagato tutto. Tutto. Non c'è peccato, non c'è mancanza, non c'è pensiero, non c'è circostanza. Niente può separarti dal suo amore. Ma devi scegliere di usufruire di questo beneficio. Devi scegliere di avvicinarti a Dio. Giacomo dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Vedete l'ordine delle cose. È Dio che ti invita dalla porta ad est, ti invita dalla porta di rigetto, di separazione, di allontanamento, ti dice: vieni, entra nei cortili. E dopo i cortili ti invita nel luogo santo e dice: sai cosa? Non c'è solo il luogo santo per te. In virtù di Gesù tu hai la possibilità di entrare nel luogo santissimo, proprio dove la mia presenza ha dimora. Vieni, dice il Signore, Lui ti invita e lo fa stasera. Dio vuole essere nella tua vita. Vogliamo alzarci in piedi. Anche a Mottola voglio chiederti di alzarti in piedi, vogliamo chiudere i nostri occhi. E vogliamo fare quello che è più idoneo fare in questo momento. Vogliamo cercare la sua presenza, impedendo al maligno di distrarci da questa benedizione che possiamo godere ora, qui, in questo momento. Se è il tuo desiderio, dovunque ti trovi, di sperimentare la sua presenza di più, o di tornare dal Padre, entrare nel luogo santissimo, ti chiedo, dove ti trovi, di alzare le tue mani. Gesù. Grazie Padre per quello che tu hai fatto. Grazie Padre. Cerca la sua presenza ora. meraviglioso perché nel mio cuore sento che ci sono persone che non hanno mai sperimentato la presenza di Dio e oggi la desiderano, e questo è un miracolo, questa è una cosa meravigliosa. Dio ha parlato al tuo cuore questa sera, sei nel posto giusto e Dio ha voluto parlare a te per darti questa esperienza nuova, unica, e fartela vivere. Mentre manteniamo i nostri occhi chiusi in preghiera e ognuno di noi cerca Dio perché Lui vuole farsi trovare, se tu sei quella persona che non ha mai sperimentato profondamente la presenza di Dio, ti chiedo di alzare le tue mani più in alto. Voglio pregare per te in questo momento. Spirito Santo, vieni ora, ti invitiamo. Tocca queste persone, fai sentire il tuo abbraccio, Padre. Falle sentire amate e volute da te. Il Signore ti dice in questo momento: non sei rigettato, non sei rigettata, sei amata. Io ti amo. Io voglio stare con te. Io voglio stare con te, io ti desidero, io voglio intimità con te. Alleluia, grazie Gesù. Grazie Gesù. Sì, e se senti di piangere in questo momento, fallo, fallo. Lasciamo libertà alle emozioni. No, non trattenere, non trattenere le lacrime. C'è liberazione, c'è gioia nel lasciare andare queste lacrime che scendono. Fallo con me.